Quarta ed ultima parte di Rock Legends. Come continuiamo ad ascoltare i brani del disco Diaries of a Hero Behind the Mask. Come si chiamava questa canzone? Questa era Scars of Addiction, questa è l'unica ballad che abbiamo nel nostro album. Quali saranno ora le mosse della band per il futuro? Beh, adesso noi ce ne torniamo su a Londra, fra una settimana avremo una data, il 22 settembre a Shoreditch, in centro città, faremo da supporto a Pino Scotto e a i Hell and the Club, che sono un gruppo qua. E poi... Gruppo friulano, esatto. Friulano padovano, comunque. È già vero, di Pordenone, giusto? Pordenone. Eccolo lì, sì. E basta, poi abbiamo intenzione adesso di collaborare parecchio con un gruppo gallese che si chiamano i Collapse, che hanno recentemente suonato al Download Festival, quindi tramite loro adesso avremo un'intensa attività live, spero, su tutta l'isola. Quindi promozione del disco anche. Assolutamente sì, poi adesso fra qualche giorno uscirà il nostro video, quindi il video di Shine Upon the Sun, quindi anche lì cercheremo di pompare a manetta proprio il pezzo su internet, poi a quanto pare andrà... La nostra etichetta riuscirà subito a metterlo su Rock TV, quindi potrete vederlo. In Italia si potrà vedere per televisione. Siamo al quinto brano, cosa scegliete di far ascoltare? Dunque, per il quinto sarà Southern Bells. Tempo come sempre vola e noi siamo quasi in chiusura di puntata. A voi ricordo i contatti per le segnalazioni, scrivete l'indirizzo email gianluca76m@yahoo.it. Ricordo www.radiorcs.it per info su Radio RCS, Rock Legends e streaming per ascoltare la nostra radio attraverso i media player. Grazie Diaries of a Hero per la partecipazione, a questo punto la parola per i contatti web ed email per info sul vostro disco ed un calendario di live già definiti. Dunque, un contatto, il contatto diretto con noi, potete trovarci sicuramente su diariesofahero@gmail.com. Se no, siamo su praticamente tutti i siti social network della musica. Quindi Facebook, su Facebook, Twitter. Cioè, Twitter, per dire. Reverb Nation. C'è Reverb Nation, c'è MySpace ancora, c'è, ce li abbiamo tutti. Anche su Roadrunner Records, cioè qualsiasi sito. Fondamentalmente, se volete invece per trovare il disco, noi siamo usciti con una distribuzione Audio Globe, quindi dovreste comunque, se siete fortunati, trovarli sugli scaffali dei negozi. Se non fosse il caso, potete comunque contattarci personalmente, noi ve lo mandiamo senza nessunissimo problema. Ovviamente il disco che sembra vendere per la maggiore in distribuzione digitale mondiale lo trovate su iTunes, Amazon, su Rhapsody MP3, lo trovate ovunque. Se mettete su Google Behind the Mask Diaries of a Hero si trova in un attimo. E per chiunque prendesse il disco online potrebbe sempre comunque mandarci un'email, chiederci di mandargli il disco fisico originale e noi lo spediamo subito senza nessuna spesa. Brano per chiudere questa serata? Dunque, il brano per chiudere questa sera è un brano un po' triste, però a mio parere molto bello anche, ed è la terza traccia del CD che si chiama Broken Tears. Gianluca e Diaries of a Hero vi salutano, noi ci risentiamo la prossima settimana. Ciao! Ciao!